La città di Roma, pur restando il centro del cattolicesimo grazie alle migrazioni, è diventata città multireligiosa. Si è svolta ieri, presso la Sala Paolo VI dell'Università Lateranense, la presentazione della nuova edizione della guida Immigrati a Roma, luoghi di incontro e di preghiera. L'iniziativa, organizzata dalla Caritas Diocesana di Roma, da Migrantes Roma e Lazio, con il supporto dell'assessorato alle politiche sociali del Comune, ha l'intento di favorire l'apertura alle diversità culturali e religiose sia tra gli italiani che tra i migranti. La guida è giunta alla sua terza edizione e quest'anno tiene conto dei cambiamenti quantitativi e qualitativi che riguardano il panorama delle migrazioni sul territorio di Roma. Grazie ad un sostanziale apporto di tipo statistico, vengono precisati i dati relativi alle usanze religiose dei migranti. Dal quadro presentato, emerge subito che la grande maggioranza degli immigrati romani è ancora di religione cristiana, smentendo così gli allarmismi di certa propaganda che grida all'invasione di matrice islamica. L'impostazione che caratterizza la guida è comunque improntata al dialogo religioso, e l'incontro di ieri ha fornito un buon esempio di come sia possibile valorizzare anche la diversità religiosa per arrivare ad una migliore conoscenza dell'altro. Vengono accuratamente elencati non solo i luoghi di culto di tutte le comunità religiose presenti sul territorio, dalle 190 chiese cristiane di tutti i riti e di tutte le comunità nazionali, alle 7 moschee e alle 5 sinagoghe, compresi i luoghi di culto per buddhisti e sikh, ma anche i principali momenti aggregativi e festivi dei vari calendari. L'incontro di ieri, dopo le relazioni degli organizzatori, si è concluso con le considerazioni dei rappresentanti delle varie comunità intervenute. Dal prete cattolico senegalese, che rappresenta una minoranza del 5% nel suo paese, al teutonico rappresentante a Roma delle chiese riformate. Tutti gli interventi hanno presentato le loro comunità religiose e i riti che le animano, sottolineando, come ha fatto il consigliere aggiunto e rappresentante della comunità islamica romana, le lunghe tradizioni di convivenza religiosa che sono state nel tempo possibili se non maggioritarie.